6F. Ascolta e trasforma. È proprio il mio zaino. Sono proprio i miei zaini. È proprio il mio orologio. Sono proprio i miei orologi. È proprio il mio quaderno. Sono proprio i miei quaderni. È proprio il mio disegno. Sono proprio i miei disegni. Non è assolutamente la mia penna. Non sono assolutamente le mie penne. Non è assolutamente la mia firma. Non sono assolutamente le mie firme. Non è assolutamente la mia proposta. Non sono assolutamente le mie proposte. Non è assolutamente la mia guida. Non sono assolutamente le mie guide.